Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, ci siamo. Andiamo ai titoli del nostro sommario con Filippa Oreggi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Sport in maglia rosa. Quando i sogni diventano realtà. Appuntamento in piazza per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Professione che pare inesauribile per Federica, che nell'acqua di casa va a vincere l'oro e a ottenere un record del mondo storico. È oro! La magnifica Alessia. Quattro palle match, sono tantissime. La battuta di Agüero, l'ace, medaglia d'oro per l'Italia. Queste ragazze sono d'oro. Sono partita all'ultimo giro e sinceramente ho detto la gamba c'è, dai Tati, crediamoci, per tutte le persone che erano ai lati della strada e che gridavano. Beatrice Delizia e la prima medaglia del nuoto sincronizzato. Ragazze d'oro in campo e nella vita, lo sport si tinge di rose, di questo parliamo oggi insieme al dottor Franco Confalonieri. Buongiorno e bentornato, dottore. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Il nostro numero però rimane verde, 800 24 00 24. I messaggi sono senza colore, 349 238 6666. Dottor Confalonieri, i successi, devo dire, parlano chiaro: le donne guadagnano terreno nello sport oggi più che ieri. Come mai? Cos'è cambiato? Ma è cambiato un po' il contesto generale, perché comunque la donna ha guadagnato spazio un po' in tutti gli ambiti e in tutti i vari aspetti della vita, quindi anche in quello sportivo. Magari non ancora abbastanza, ma sicuramente ne ha guadagnato. Dall'altro lato, diciamo che lo sport femminile ha assunto valore, quindi mentre fino a qualche anno fa tutto sommato i risultati femminili venivano considerati risultati di serie B, adesso anche gli stessi operatori, gli allenatori, l'opinione pubblica in genere dà un valore analogo al risultato femminile e al risultato maschile, e quindi gli allenatori, i dirigenti, le società da una parte, le atlete stesse dall'altra si sono applicate. E poi probabilmente da questo punto di vista la donna italiana ha talento nello sport, soprattutto quelle che provengono da alcune regioni, da alcune zone, hanno talento e hanno anche la testa per fare lo sport ad alto livello, spesso più degli uomini. Quindi questo mix di cose ha portato a questi grandi risultati degli ultimi anni. Dottore, però noi oggi vogliamo rivolgerci anche alle donne che, pur non praticando sport a livello agonistico, vivono lo sport come strumento di benessere, con tanti vantaggi, dottor Confalonieri. Ci sono fiore di ricerche. Indubbiamente ci sono vantaggi da tutti i punti di vista, vantaggi per la salute in senso generale, quindi quelli che hanno l'uomo e che forse sono ancora maggiori per la donna. Vantaggi... Dice che funzionano ancora di più? Beh, tutti gli aspetti relativi alle modificazioni che si hanno, per esempio, con la menopausa, sono sicuramente combattuti molto bene da un'attività fisica duratura e continua. Gli aspetti cardiovascolari ne risentono altrettanto positivamente le donne e gli uomini. Tutte le problematiche legate invece agli aspetti più strutturali, si pensi alla colonna, si pensi alle articolazioni delle gambe, indubbiamente le donne sono, pensiamo solo alla gravidanza, sottoposte a sovraccarichi molto maggiori rispetto agli uomini, relativamente ai quali la compensazione legata allo sport può essere più vantaggiosa. E quindi sicuramente lo sport alla donna fa bene. La domanda di oggi quindi è? No, la domanda di oggi la vorrei fare un po' particolare, anche perché tutto sommato vorrei che si parlasse un po' di sport e femminilità oggi. Quindi faccio una domanda un po' intrigante, se vogliamo. Cioè alle ascoltatrici vorrei proprio chiedere: voi fate sport, attraverso lo sport vi siete scoperte più femminili, più donne o meno? E questo ha corrisposto alle vostre desideri? Cioè avete fatto sport perché volevate emergesse la vostra componente maschile, o avete fatto sport per sentirvi più donne? E cosa è successo? Vi sentite più belle, più donne, o vi sentite un po' meno femminili? E poi vorrei chiedere agli uomini che ci ascoltano. Certo, che cosa... Le vostre donne fanno sport e dal momento in cui fanno sport le vivete come maggiormente femminili o come un pochino meno femminili? Le sentite più donne o meno donne? Ecco, vorrei una risposta a questa domanda, cioè lo sport vi aiuta a diventare più donne oppure no? Allora, quindi dovete raccontarci quale sport avete scelto, per quale motivo, soprattutto i vantaggi, le trasformazioni e le modificazioni che ha prodotto questa attività sulla vostra femminilità. Per lei femminilità che cos'è, dottor Confalonieri? Questa è una domanda troppo difficile. Va bene, allora... È capacità di trasmettere emozioni a un uomo. Solo un uomo? Soprattutto un uomo. Io parlo da uomo. Va bene, lei parla da uomo, parleremo anche da lei ci parlerà anche da medico, quindi così si salva. Ma guardiamo anche l'altro lato della medaglia. Tante donne, prese dalla routine quotidiana, non riescono a ritagliarsi un po' di tempo. Proprio non ce la fanno. No? Cercano di organizzarsi, poi alla fine passano le settimane, in palestra non si va, a correre non si va. Ecco. Allora, oggi, dottor Confalonieri, lei troverà delle strategie, dei percorsi, riuscirà magari a darci quel trucchetto per inserire un po' di attività fisica nel nostro quotidiano, nell'arco della nostra settimana, a fare tutti quei movimenti che è quello un po' di attività o anche un po' di sforzi che in qualche modo aiutano a mantenerci in forma. Sì, perché ha sottolineato un aspetto fondamentale, cioè spesso abbiamo detto che uno vorrebbe fare sport ma non riesce a farlo perché non riesce a trovare il tempo per farlo. Se questo è un problema per gli uomini, lo è sicuramente in misura maggiore per molte donne che ormai lavorano ma hanno, oltre al sovraccarico del lavoro, quello della famiglia e quello della casa. Quindi spesso è relativamente più facile per un uomo organizzarsi in funzione dell'esercizio fisico che non per una donna, e credo che questa sia una difficoltà che dobbiamo aiutare le donne a superare. E anche le nostre amiche da casa che hanno trovato un po' la quadratura del cerchio possono naturalmente raggiungere il nostro numero verde e raccontarci come sono riuscite a organizzare un po' di attività fisica, soprattutto quali vantaggi hanno ottenuto, quindi in qualche modo ci faremo suggerire dei modelli vincenti. 349-238-6666 se volete scriverci la vostra ricetta. Una mela al giorno. Oh, oh. Ok. Sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato. Quindi, quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Ehi. Sì. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me, ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. E insieme alla dottoressa Capurro, coach professionista che è tornata a trovarci, dottoressa Capurro, buongiorno. Dottoressa Capurro, non c'è più? Sì, dottoressa sì, Capurro. Sono qua, mi senti? Non la sentivo più, ho detto qua siamo pronti, abbiamo tirato fuori il sogno dal cassetto. Sì, abbiamo pronti. Detto, questo è quello che vogliamo fare, è realizzare un po' i nostri desideri che abbiamo in qualche modo trascurato, perché forse qualcuno, come abbiamo sentito da questo breve estratto del film, ci diceva non siamo capaci. Invece lei oggi è qui con noi perché vuole allenare a passare dalla teoria alla pratica. Dottoressa Capurro. È proprio così, Nicoletta. Sì, noi abbiamo parlato già, ha introdotto l'argomento mercoledì. Sì. E oggi ne riparliamo ancora perché è un argomento veramente importante. E in particolare oggi voglio sollecitare l'attenzione su un aspetto che ho approfondito molto come programmatrice neurolinguistica ed anche nel mio osservatorio di coaching ho notato veramente che rappresenta una chiave di volta. Però per fare questo voglio ricorrere a un esempio pratico, Nicoletta, per tutti... così si coglie veramente l'essenza di quello che voglio dire. Grazie. Allora, ieri abbiamo detto, mercoledì abbiamo detto, posto una domanda, cosa vuoi veramente? Ora prendiamo un esempio di una persona che abbia risposto, voglio cambiare lavoro. Sì. Ora, chi non sta guidando può seguirmi in questo esercizio, gli altri magari lo possono fare tranquillamente a casa. Ripetete dentro di voi questa risposta, voglio cambiare lavoro. L'avete fatto? Ok, adesso invece ripetete, ho un nuovo lavoro. Quale definizione di obiettivo vi è risultata più potente? Avete sentito dentro di voi più potente? Nicoletta, tu che dici? Hai fatto l'esercizio? Sì, io ho fatto l'esercizio anche qua al dottor Franco Confalonieri, sicuramente la seconda. È segno che le parole dicono qualcosa. Per lei, dottor Confalonieri, voglio oppure cambio? La prima per me. Voglio? Sì. L'ho sentita quindi, più forte. Lui l'ha sentita più forte, quindi forse è anche una differenza di genere a guidare le nostre preferenze. Di genere, diciamo che probabilmente l'esercizio va ripetuto con maggiore attenzione che dentro un programma televisivo, perché sicuramente la seconda è la più forte, nel senso che proprio è differente un conto voler fare qualcosa, un conto è farla, proprio a livello di risorse sulle quali focalizziamo la nostra mente per partire verso i nostri obiettivi. Perché quello che voglio dire è che per definire un obiettivo noi dobbiamo essere in grado di disegnarlo in termini di risultato. Questo lo trasforma quindi in un vero e proprio target. Noi, Nicoletta, un po' di mesi fa, per esempio, abbiamo parlato del mio libro, nel quale c'è proprio una citazione a questo proposito che voglio ricordare, di Frank Outlaw: presta attenzione ai tuoi pensieri, diventano parole; presta attenzione alle tue parole, diventano azioni. Ma non basta, c'è un altro elemento importante perché i sogni diventino obiettivi, quindi passino a un livello di concretezza, acquistino dentro di noi chiarezza e concretezza. Rimaniamo sul nostro esempio, quindi questa persona che vuole cambiare lavoro, se questa persona vuole realizzarlo, abbiamo detto, deve definirlo in termini di risultato, quindi ho un nuovo lavoro. Già questa linguistica gli consente di individuare se stesso nel lavoro, ma è ancora molto vago, perché dicendo così l'obiettivo potrebbe essere raggiunto anche una volta trovato un lavoro di 2 ore, magari anche senza paga. Certo. Okay? E poi è questo che vuole la persona? E poi quando? A 120 anni? L'obiettivo quindi veramente deve passare ad un altro livello, a un livello di disegno, a un livello di concretezza, a un livello di specificità, perché quello che noi otteniamo è quello che noi, sul quale noi ci focalizziamo con chiarezza. Ho sentito solo in coda alcune, che parlavate di sport con sì, il noi oggi vogliamo dare anche la ricetta per riuscire a muoversi alle donne che sono veramente soffocate dalla routine quotidiana. Ecco. Quindi il proposito è: non voglio fare, ma mi muovo, faccio sport. Faccio sport, e quindi questo mette la persona in grado di cominciare a focalizzarsi sul suo tempo, su che sport vuole fare, sugli obiettivi di questo sport, cosa vuole raggiungere con questo sport, un fitness, un miglioramento cardiovascolare. Cioè, lo sport ci offre una gamma di vantaggi veramente immensi. E quindi è veramente, ecco, anche in un obiettivo così importante cominciare a chiarirsi, se no rimane tutto molto sul volere, sul forse, sul vorrei, sul desiderio, non passa al lato pratico. Quindi mettere nero su bianco, dottoressa Capurro, questo è un po' quello che suggeriamo. Certo, c'è ancora tanto da dire, Nicoletta, sugli obiettivi, questi sono però i primi elementi base sui quali penso gli ascoltatori possano cominciare a lavorare e a ragionare. Ecco, e ci vuole un po' di pazienza però, perché naturalmente non possiamo poi prendere subito una decisione dall'oggi a domani, ma iniziamo a pensare da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Dottoressa Capurro, la ringrazio per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Non è mai troppo tardi per essere chi avresti potuto essere. George Eliot. Pronto soccorso. Allora, dottor Confalonieri, noi torniamo ad occuparci di donne che vogliono fare sport e anche di donne che sono riuscite a farlo. Ad esempio, mi scrive: 52 anni, 4 figli, 5 volte a settimana 60 vasche con i pesi alle caviglie, 1 chilo. Fisico da trentenne, mentre nuoto non squilla il telefono. Grazie della bella trasmissione, ci scrive Teresa. Teresa si è organizzata, ha voluto farcela. Ha voluto farlo, fa moltissimo sport. quindi 60 vasche a settimana, 5 volte a settimana sono davvero tante, e sottolinea uno degli aspetti che secondo me sono importanti: fisico da trentenne a fronte dei 52 anni anagrafici. Ecco, molto spesso la motivazione fondamentale nelle donne che fanno sport è gestire il proprio fisico, quindi o conservarlo giovane o conservarlo magro o consentirsi magari una minore attenzione sul piano nutrizionale mantenendo la linea, mantenendo il peso forma. Spesso in queste situazioni il rapporto con lo sport diventa quasi eccessivo, diventano quasi dipendenti queste donne dalla pratica sportiva, ed è qualcosa che invece dovremmo cercare di evitare, dovremmo cercare di non perdere mai il gusto di fare sport per il piacere del movimento, indipendentemente dall'obiettivo salutistico o di dimagramento che abbiamo, perché sennò rischia davvero di diventare, invece che uno strumento di benessere, una sorta di dipendenza. Ma dottor Confalonieri, come dobbiamo cercare, trovare il tipo di attività fisica per noi più adatto? Insomma, che cosa teniamo in considerazione? La nostra struttura fisica, il tempo che abbiamo a disposizione, l'età o anche il nostro carattere, perché anche allora, quello ha un bel peso. Nell'ordine partirei proprio dal carattere, soprattutto parlando di donne. Dobbiamo capire quanto è forte dentro di noi la componente di creatività, di femminilità, il gusto estetico, tutto ciò che è più tipicamente femminile. Già che ci vediamo tutti venerdì. Uno sport con elevate caratteristiche di femminilità, uno sport con una dimensione artistica forte. Ad esempio? Uno sport in cui c'è della musica, in cui c'è del movimento, uno sport come può essere la ginnastica artistica, la danza, il pattinaggio su ghiaccio e via dicendo. In primis il carattere, finisco molto brevemente, poi il tempo a disposizione, fondamentale per dare continuità, quindi praticare un'attività che possiamo fare, non che diventa velleitario voler fare, poi le controindicazioni sul piano della salute, quindi sapere se la nostra struttura fisica, il nostro apparato cardiovascolare ci consente di fare quell'attività, e infine l'età, perché l'età non ci deve condizionare, è il modo di fare sport che potrà condizionarci, ma non l'età. Ecco, mettiamole in quest'ordine. Intanto Antonella da Verona, 44 anni, ci scrive: sono più sicura di me, ero complessata perché magra, ora faccio palestra, cammino e vado in bici, mio marito dice che sono anche più sexy. In linea con noi abbiamo Valentina Marchei, campionessa italiana di pattinaggio su ghiaccio. Valentina, ciao! Buongiorno a tutti! Valentina, chi ti vede pattinare è conquistato, direi, dall'eleganza, dalla naturalezza del gesto. In realtà pattinare richiede una grande preparazione, ci vogliono tecnica, forza e resistenza, quindi esatto. No? Componenti che sembra e precisione, aggiungi tu. Sì, sì, beh, noi facciamo 5-6 ore di allenamento al giorno, proprio per questo, dove si uniscono il lavoro di tipo fisico in palestra e sul ghiaccio, il lavoro di tipo per lavorare l'eleganza, quindi in palestra, danza classica o coreografia sul ghiaccio, e poi la precisione, si tratta di tutti quei lavoretti su per l'equilibrio, per sentire il proprio corpo, conoscerlo, saperlo utilizzare, avere la sensazione di ogni piccolo muscolo che c'è nel tuo corpo, che può fare la differenza, perché anche l'1% in più ti può dare qualcosa in più rispetto alle altre. Dottor Confalonieri, lei ha chiesto quanto lo sport ha aggiunto alla vostra femminilità, vedere, no? Pattinare sul ghiaccio e vedere proprio l'eleganza della donna. Valentina ci ha raccontato che cosa però c'è dietro a questo lavoro. Ecco, è molto bello, da quanto diceva proprio emerge e tutto quanto ci sta in termini di lavoro e di fatica dietro, un'espressione apparentemente leggera per quanto molto bella come la femminilità, e questo sta dietro alla costruzione di qualsiasi prestazione sportiva di qualsiasi livello. Noi vediamo il risultato finale e non vediamo tutto ciò che sta dietro, tutti i prerequisiti che stanno dietro e che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo finale, e direi che Valentina l'ha espresso in modo mirabile. Valentina, dato che noi oggi vogliamo dare consigli alle donne di tutte le età, quindi anche alle bambine, tu consiglieresti il pattinaggio? Tu hai iniziato piccola, a 7 anni. Sì, lo consiglio, perché io ho incominciato e mi sentivo una principessa, e si sa che alle bambine piace sentirsi principesse quando credono ancora alle favole, no? E quindi a me è proprio questa cosa che mi piaceva di quando avevo quell'età del mio sport, il fatto di sentirmi il vento sui capelli, che mi spostava i capelli, il fatto che potessi dargli io un sapore, perché ognuno ha il suo stile e noi siamo proprio noi stessi artefici del nostro stile, quindi sapere che in qualche modo dovessi dipendere da un'allenatrice ma potessi dargli il mio stampo, quindi credo che sia la cosa più bella. Poi è come nella danza e nella ginnastica artistica, in fondo, come diceva appunto il dottore. Valentina, tu sei, devo dire, una principessa. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata, un abbraccione. Grazie. Grazie, un abbraccio, grazie a voi. Ma quella che crede di essere, Bergamo. Perché hai paura che giochi a pallone? Il calcio mi allontana dal mio mondo. Volete piantare con due? Nessun ragazzo inviterebbe mai a cena uno coi colpacci più grossi dei suoi. Gioco in una squadra femminile. Mia madre vuole che non giochi più. Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone. Dottor Confalonieri, qui si gioca a calcio, che tra tutte le attività fisiche sembra quella meno femminile. La domanda è: lei inviterebbe mai a cena una donna con i polpacci più grandi di lei? Sì, almeno saprei di cosa parlare. Di calcio. Avrei già superato delle difficoltà. Lei no, si no, aspettava no. La domandina. No, no, ci no. Sono sport più femminili, invece, più maschili? Invece. E invece sono andata sul polpaccio. Beh, comunque, ritornando all'acquisito sugli perché sport. Perché il polpaccio? Perché nel calcio si no, sviluppa no, tipicamente. No, pensavo a lei muscolo. E il polpaccio. Vabbè. E no, ci sono attività per cui sicuramente le donne sono più predisposte e sono tutte le attività ad alta componente tecnica, quindi più difficili sul piano coordinativo, dove le donne sono migliori o pari all'uomo, e poi quelle in cui prevale la resistenza, perché indubbiamente in termini di resistenza le differenze fra uomo e donna sono minime. Quelle invece in cui prevale la forza ovviamente sono attività più tipicamente maschili. Da questo punto di vista negli sport di forza mediamente le donne sono sempre state meno coinvolte. Poi ci sono anche situazioni di tipo culturale, tipico qua del calcio. In Nord America il calcio è lo sport di squadra di gran lunga più diffuso fra le donne. Vedi. Da noi una ragazza che fa calcio è un po' una mosca bianca, è vista un po' come con qualcosa polpaccio. Di strano. Però al di là di queste componenti direi che qualsiasi sport va bene, bisogna essere consapevoli dei limiti che la persona anche in quanto donna porta dentro quello sport. Silvana da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Come va? Abbastanza bene. Bene, questo mi fa piacere. Ci racconti che cosa sta facendo? Vabbè, adesso sto lavorando e volevo chiedere al dottor, vi seguo tantissimo come trasmissione, e volevo chiedere al dottor Gonfalonieri, io sono una donna predisposta all'attività sportiva. Sì. Ho sempre fatto tantissimo sport. Arrivata alla soglia dei 50 anni, mi ritrovo ad aver difficoltà a partire, nel senso che prima partivo, dovevo farmi i miei 50 km in bici, partivo tutta entusiasta. Adesso ho un calo di forza, un calo di motivazione. Sto imbrogliando i miei muscoli. Sì. Introducendo la carnitina. Senta, ma perché Silvana, lei non ha pensato di dopo i 50 anni di cambiare magari attività fisica, di darsi ad un altro sport? Per forza. Sa che io sono una grande sostenitrice del ballo, ma ecco perché non mi porta nessuno. Allora, io ho introdotto da poco, da 2 mesi, il tango argentino. Sto facendo lezioni. Come va? Difficile? Sì. È difficile, però mi entusiasma perché mi stacca da tutti i pensieri e lì lavoro sulla mia persona, lavoro sulla mia mente e mi distende, mi rilassa. Il tango argentino è difficile, sì, sicuramente, però questo impegno mi porta a competere con altre donne più brave e questo mi stimola nell'andare avanti. Vede Silvana, lei si è trovata già, non ha neanche bisogno del dottor Confalonieri, che di tango argentino tra l'altro sa pochissimo. Dottore, buongiorno a lei. Sì, direi che in parte si è già risposta da sola. Direi è normale che a una certa età diminuisca la motivazione e io non mi preoccuperei molto anche se si riduce un po' l'attività fisica. Ci sono ottime basi, la salute è garantita, continuiamo a farne un po', magari anche un po' meno. Evitiamo di ricorrere a trucchi di tipo farmacologico, non serve a nulla e anzi rischia di essere pericoloso. Differenziamo, cambiamo l'attività. In questa fase probabilmente c'è meno bisogno di stare soli con se stessi, come capita in bicicletta, c'è più bisogno di divertirsi e di riscoprire un'attività che cancelli un po' i pensieri e che ci faccia stare con gli altri. Perfetto il cambio dal ciclismo al tango. E questo vale anche per gli uomini? Assolutamente, vale per tutti. Magari troveremo qualche ballerino. Zoe, dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Lei balla, Zoe? Sono un po' emozionata. Zoe, balla o non balla lei? Beh, a me piace il ballo in generale, mi piace proprio ballare, ma non ho... Si sente, non so se Filippa Oreggi mi dice di richiamarla. Sì, perché Zoe, la richiamiamo tra poco perché la sua voce è un po' disturbata, la linea è disturbata. Ci sentiamo tra poco. Dottor Confalonieri, con l'età si cambia, anche perché si provano delle nuove emozioni, delle nuove esperienze, questo è sicuramente un vantaggio. Piuttosto, no? Piuttosto che abbandonare tutto, cerchiamo, è anche una bella sfida. Sport di gruppo, sport individuali? Questa è una perché bella domanda. La nostra amica ha detto: io sono anche stimolata da altre donne che ballano meglio e quindi c'è una sorta un po' di, tra virgolette, competizione. Devo arrivare anch'io a ballare a quei livelli. Funziona anche nello sport, ma le donne, come secondo lei, sono più portate per essere delle soliste oppure giocare in gruppo? Direi che può sembrare un luogo comune, ma le donne sono soliste. Fondamentalmente soliste. La donna è più predisposta allo sport individuale, è più predisposta alla ricerca della prestazione piuttosto che del ritorno in termini proprio artistici o coreografici di tipo individuale. Lo sport di squadra si adatta poco alle donne, è molto più difficile gestire una squadra femminile che non una squadra maschile, è molto più difficile gestire un gruppo di donne che non un gruppo di uomini. Questo lei lo dice per esperienza questo personale. Lo dico per esperienza, avendo lavorato e seguito atlete e squadre di vari livelli, sia maschili che femminili. Diciamo che il grande allenatore spesso fa la differenza nella squadra femminile proprio perché riesce a gestire equilibri che sono molto più complessi e la fa meno nella squadra maschile, dove già gli equilibri se li creano un po' da soli i giocatori fra di loro. Ciò non significa che non possa essere molto educativo, soprattutto per una ragazza in crescita, anche sperimentare lo sport di squadra, perché la può aiutare a completare il suo carattere smussando certi aspetti solistici, magari eccessivi. In linea con noi abbiamo Margherita Granbassi. Margherita, ciao! Buongiorno a tutti, ciao! Senti, tu hai quello che nell'immaginario collettivo, il duello, è una cosa tipicamente maschile, però... negli ultimi tempi ti vediamo anche ballerina e quindi tu in un con Margherita noi prendiamo due piccioni con una fava, perché il dottor Confalonieri diceva le donne sono più adatte agli sport individuali, sono delle soliste, gestire una squadra per un allenatore, beh, sicuramente una squadra femminile è sicuramente una prova una prova faticosa. Margherita, tu confermi? Penso che abbia assolutamente ragione il dottor Confalonieri, noi abbiamo degli equilibri molto particolari, oltretutto la scherma, cioè il mio sport è uno sport che è ancora più particolare degli altri perché è uno sport individuale ma nel quale c'è anche una gara a squadre, infatti. Ovviamente lì gli equilibri insomma sono ancora più delicati. Senti, scherma e ballo, noi abbiamo molte ascoltatrici che ci stanno scrivendo dicendo ho riscoperto il ballo, prima andavo in palestra, mi annoiavo, viva la danza, faccio il tango argentino, grandi fan dei balli latinoamericani che mi dicono essere completi e poi che modellino la figura. Scherma e danza che sembrano così diverse, che cosa hanno in comune secondo te? Sono così diverse nel senso che ne ho avuto la conferma quando ho incominciato a prendere le lezioni di ballo. Devo dire che non pensavo fossero due mondi così, così lontani. Ovviamente già partendo dalla posizione, proprio quella tipica della scherma, la posizione di guardia, le ginocchia molto lontane tra di loro, bisogna tenerle distanti, aperte, e ovviamente invece nella danza una donna deve cercare di tenere le ginocchia vicine. Poi insomma ci sono tantissime altre cose, no? Per esempio il tempo, sì. Devi andare sempre in sincro col tuo compagno nel ballo, mentre nella scherma in realtà al tuo avversario il tempo lo devi rubare, per cui quello che diciamo nella danza è l'1-2, sì. E devi cercare di eseguirlo correttamente nella scherma, tra quell'uno e il due tu devi colpire l'avversario, per cui anche a livello di tempo mi sono trovata un po', ho fatto un po' di fatica, però a livello di divertimento è la stessa cosa. Margherita, il dottor Confalonieri vuole approfittare di Margherita Granbassi per un'ultima domanda prima di salutarla, perché lei si sta allenando, 1-2, 1-2, veloce. Sì, molto rapidamente. In entrambe queste attività però al centro c'è il corpo, c'è il rapporto di una donna col proprio corpo, che poi è centrale proprio anche nel rapporto della donna con lo sport in genere. Hai trovato differenze nel rapporto con il tuo corpo nella scherma e nella danza, o sotto questo punto di vista le due attività sono simili? No, sono molto molto diverse, nel senso che il mio rapporto con il corpo mentre sono in pedana è veramente puramente professionale, nel senso che lo vedo come uno strumento di lavoro, sì. Le gambe non devono essere belle, devono scattare, devono essere nervose, devono partire al momento giusto, e invece nel ballo ovviamente la questione estetica ha un po' più importanza, se non altro per gli abiti che si indossano. La donna deve cercare di avere quella grazia che magari in pedana è un po' difficile mettere, perché insomma lì si mette più però Margherita, poi mi dicono che sono troppo gentile, ma mi viene dal cuore, tu devo dire che sfondi da una parte e dall'altra. Un abbraccio a Margherita Granbassi. grazie a voi. In bocca al lupo. Dottor Confalonieri, è stata brava la Margherita, sì, la nostra Margherita. Ha detto una cosa importantissima e che dovrebbe anche guidarci nella scelta dello sport per le nostre figlie e nella scelta dello sport per noi. Ha sottolineato la differenza che c'è nel rapporto con la propria corporeità in uno sport in cui il corpo è strumento, e in un'attività in cui invece il corpo è fine, se vogliamo, dell'attività stessa. E questa credo sia una differenza fondamentale. Le persone che vogliono esprimersi attraverso il proprio corpo dovrebbero scegliere magari sport a più elevato contenuto artistico, come si diceva all'inizio, come possono essere la danza, il pattinaggio, la ginnastica artistica e quant'altro. Persone invece per le quali non è centrale questo, ma in cui l'importanza del corpo va al di là dell'aspetto estetico, possono scegliere sport nel quale il corpo diventa strumento. Questo direi che è proprio fondamentale, perché ci sia un buon rapporto tra attività fisica e personalità, e quindi per raggiungere un benessere, come si è detto spesso, globale. E poi magari si intrecciano le due cose. Poi naturalmente tutte le situazioni non sono statiche, quindi può esserci un'evoluzione. Sì, questa mi piace. Zoe, l'abbiamo ripescata. Buongiorno. Ecco, la sento. Sì. Mi sentite? Bene, molto bene. Ecco. Io volevo dare una testimonianza riguardo alla bellezza dello sport, perché comunque io l'ho sempre praticato, non in maniera intensiva, però ho sempre fatto palestra, bicicletta, sci, corsa. Adesso ho 36 anni, ho avuto un bambino che ha 3 anni e per 3 anni mi sono dovuta fermare. Finalmente tra lavoro e casa sono riuscita comunque a recuperare del tempo per poter rifare dell'attività fisica, e ho ritrovato la bellezza del nuoto che avevo praticato da piccolina. E adesso sto facendo dei corsi, comunque so nuotare, però è bello perché comunque alla fine della lezione mi sento bene di schiena, di spalle. Mi piace avere il fisico che risponda. Sì, esatto. Che risponde, infatti l'ha descritto molto bene. Ma Zoe, lei ha scelto il nuoto perché sapeva che il nuoto immaginava che il nuoto le avrebbe dato questa sensazione di risposta del corpo, oppure ha scelto perché aveva la piscina comoda, gli orari, come è andata? È stato un po' un insieme di cose, perché in effetti per il lavoro, per la posizione per la casa, insomma, sicuramente era una condizione comoda per questi aspetti, però mi piaceva l'idea comunque anche di sviluppare bene il fisico, e quindi è stato un po' tutto un insieme di cose, ecco. Grazie allora Zoe per il consiglio. Dottor Confalonieri, lei ha detto carattere e attività sportiva, il nuoto Ma il nuoto sicuramente è uno sport molto individuale, in cui si deve avere un rapporto solo con se stessi, e quindi da questo punto di vista lo dovrebbero privilegiare queste persone. Volevo riagganciarmi a quanto diceva la nostra ascoltatrice per sottolineare un aspetto molto importante e un significato importante che può assumere lo sport in diverse fasi della vita della donna. Cioè lo sport può diventare uno strumento fondamentale per consentire alla donna di riappropriarsi del rapporto con la propria corporeità. E questo succede dopo la gravidanza. Io ritorno protagonista del mio corpo, che per un po' ha avuto una funzione diversa, ma può succedere anche in fase durante la pubertà, quando la trasformazione mette spesso in crisi le ragazze. Allora lo sport può diventare uno strumento per imparare a riconoscere ancora il proprio corpo, e ancora dopo la menopausa, quando non riconosciamo più il nostro corpo, si sta trasformando, e attraverso lo sport possiamo riappropriarcene. Credo che questo siano tre momenti in cui lo sport davvero può assumere un significato alleato ulteriore e diventare un ottimo alleato. Bravo dottor Confalonieri, mi è piaciuto molto. Antonio da Lodi, buongiorno. Antonio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prima di tutto complimenti per la trasmissione, molto bella, la seguo da parecchio. Grazie. Volevo portare la mia esperienza. Io sono tanti anni che faccio arti marziali, più o meno a livello amatoriale, via. E tutte le volte che ho avuto modo di confrontarmi con il mondo femminile che si cimentava nelle arti marziali, devo dire che con mia grande sorpresa ho potuto notare che le donne hanno delle capacità molto più performanti degli uomini. Sì. Non parlo del combattimento, ma quanto quello che noi chiamiamo i quien, le forme a mani libere, le simulazioni. E nella maggior parte delle gare a cui ho partecipato le donne primeggiavano sempre. All'inizio le donne, quando hanno il primo approccio con questo sport, rimangono un po' titubanti, ma quando se ne innamorano diventano sicuramente più brave degli uomini. Io vorrei fare un piccolo spot a favore delle arti marziali, nel senso che ne abbiamo ancora troppe o poche di donne che scelgono questo sport. Direi, se non l'avete ancora provato, provate. È uno sport che dà soddisfazione, soprattutto che poi può avere un fine ultimo di difesa personale, che di questi tempi non è male. Grazie Antonio. Dottor Confalonieri, ma sottoscrivo. Arti marziali e femminilità, due mondi lontani o no? No, assolutamente. Anche grandi campionesse che abbiamo avuto anche negli Laura arti Vanossi, marziali erano assolutamente molto, molto femminili. È uno sport sicuramente adatto alla donna, che ne accentua anche la bellezza e la corporeità, appunto. E poi indubbiamente, laddove c'è da combattere, credo che sia esperienza di tutti che difficilmente esce vincitore, soprattutto sulla lunga distanza, l'uomo. Quindi la donna è sicuramente predisposta per tenacia, per costanza, per resistenza, alla fine a raggiungere grandi risultati anche in questi sport. Nadia da Treviso ci scrive: ho superato un brutto momento della mia vita riprendendo a fare sport con regolarità. Ora sto bene con me stessa e con gli altri. Quindi questo è un altro aspetto dello sport di cui abbiamo parlato spesso, è proprio lo sport come un integratore anche dell'umore, giusto dottor Confalonieri? Assolutamente, inserito in una giornata, in una vita, in un divenire di movimenti, per cui non diventa l'unico protagonista, lo sport può essere sicuramente un elemento fondamentale per un benessere di tipo globale. L'importante, e questo lo dico soprattutto alle donne, visto che oggi abbiamo parlato di donne, è che non diventi l'ingrediente fondamentale. A me fanno un po' paura le donne per le quali a un certo punto, per vari motivi, per superare crisi o difficoltà, lo sport diventa l'ingrediente fondamentale della loro vita. Deve essere un ingrediente, che succede agli uomini, no? Non può essere l'unico, perché allora veramente si crea quella dipendenza da sport per cui diventa qualcosa di non più così sano e non più così positivo. Come si vede in tanti uomini appassionati di maratona, che passano il tempo a mettersi d'accordo i tempi, eccetera, no? Nelle donne le donne riescono ad andare oltre. Ecco, allora, prima di salutarvi, un appuntamento importante: sostieni la ricerca e aiuta le donne a combattere la sclerosi multipla. Sabato 7, domenica scusate, sabato 6, domenica 7 per la festa della donna, lunedì 8 marzo torna in 3.000 piazze la Gardegna dell'AISM, l'appuntamento con la solidarietà per la lotta alla sclerosi multipla. Allora, avete tutte le informazioni sul sito www.aism.it. Come sempre il nostro appello è di sostenere la ricerca, che fa dei passi avanti, ha bisogno comunque del nostro impegno, e noi dobbiamo credere in lei per farla progredire. Per lunedì, sto sforando, lo so, andate su Google, scrivete cervello delle donne, andate su immagini, vi appare un'immagine, tenetela, e lunedì vi aspetto perché parleremo di cervello al femminile. Se volete fare questo compito, io vi aspetto, e domani a Questa casa non è un albergo a mezzogiorno. Dottor Confalonieri, a venerdì prossimo. Arrivederci.